Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Non è facile fare una trasmissione di scienza che tenga conto del clima natalizio. Noi ci proviamo questa sera parlandovi di storie che hanno a che fare con neve, ghiacci, sport invernali, ma anche storie che sanno un po' di favola. Benvenuti a Möbius, quindi, e ascoltiamo i titoli di questa puntata. Il nome è buffo e la sua storia è tenera. Si chiama Chiurlottello, un uccellino che non sappiamo se c'è ancora o non c'è più. Una coperta su 150 metri quadri di ghiacciaio e il ghiaccio non si scioglie. 14.000 chilometri e 4 mesi di viaggio. Parte una spedizione che ripercorre il tragitto di Amundsen 100 anni fa, dalla Norvegia allo stretto di Bering. È Natale e in cucina si può essere scientifici. Möbius vi propone il menù molecolare per le feste. La Ferrari vuole anche scivolare sul ghiaccio e progetta dei bob per le prossime Olimpiadi invernali di Vancouver. Marco Gustin, buonasera. Buonasera. Questo che stiamo ascoltando è il canto del... del ciurlottello. Certo che ha un nome assolutamente eccezionale e anche simpatico. Allora, Marco Gustin, responsabile specie e ricerca della LIPU. Stiamo parlando di un uccellino che però non sappiamo dove è andato a finire, probabilmente... è messo male, insomma, dal punto di vista della sopravvivenza. Sì, probabilmente è una specie estinta. Non ne siamo però completamente sicuri. Non ne siamo completamente sicuri. Certo è che le osservazioni che si hanno, soprattutto in Europa meridionale, dove la specie sverna, sono alquanto limitate. Quando è stato visto l'ultima volta? L'ultima volta in Italia circa 10 anni fa. E, diciamo, in altri paesi del bacino mediterraneo 4-5 anni fa. In questa puntata, che è tutta un po' nordica e un po' natalizia, noi mettiamo il chiurlottello perché lui viene da lassù, da lontano. Viene dalla Siberia, e dove nidifica, e in Italia, nel Mediterraneo, viene a passare l'inverno. Perché qui dobbiamo ricordare che gli uccelli nidificano dove a noi sembrerebbe più difficile farlo. Più difficile farlo, però in realtà in periodo estivo, quindi diciamo nel giugno-luglio, i primi d'agosto, quelle regioni settentrionali così, diciamo, difficili dal punto di vista climatico ora, sono un paradiso per chi vuole riprodursi, perché sono delle zone ancora molto estese, molto selvagge, con tantissimo cibo, perché ci sono miliardi di insetti disponibili per questi uccelli. Perché loro nidificano e si riproducono nel momento in cui la condizione climatica è più favorevole. È più favorevole. Sul nostro sito, se poi andate in home page, troverete la notizia. Abbiamo anche un'immagine. È un uccello veramente bello. Le dimensioni quali sono? Ma sono di un gabbiano. Di un gabbiano. Di un gabbiano con questa particolarità che è questo becco molto molto lungo e arcuato, diciamo abbastanza, quindi con un becco abbastanza particolare, diciamo abbastanza ben riconoscibile da questo punto di vista. Comunque dicevamo che praticamente gli ultimi avvistamenti sono 5-6 anni fa e al momento non si hanno altre tracce, però non siamo sicuri, insomma, che... Di non averne più tra noi completamente. Non siamo sicuri anche perché è probabile che parte di questa popolazione che nidifica appunto in queste estreme regioni del nord Europa possa svernare anche in altre aree, diciamo del sud d'Europa, che sono l'India ad esempio, o diciamo l'est europeo. Sì. Certo. Quindi non è detto che tutti i ciurlottelli poi passano o stanno passando l'inverno nel Mediterraneo. Allora però, Marco Gustin, noi fra poco parleremo di una spedizione italiana che starà 4 mesi, sono appena partiti in quella zona nord Europa, a loro non possiamo chiedere di avvistare il ciurlottello. Purtroppo no, perché il ciurlottello in questo periodo si trova al sud. quindi non riuscirebbero proprio a rintracciarlo anche volendolo proprio. Cosa possiamo fare allora? Possiamo, diciamo, allertare tutti i nostri birdwatcher che si trovano in giro per l'Italia, e adesso ce ne sono, rispetto a qualche anno fa, sicuramente molti, molti di più, molti ragazzi giovani che possono andare in giro per le nostre zone umide, soprattutto in Italia centro-meridionale, e avere la fortuna di riuscire a rintracciarne qualcuno, come accadde circa 10-15 anni fa nella palude di Flattarolo in Puglia. Gustin, noi abbiamo la voce del Chiullottero, la sua immagine, la mettiamo sul sito, speriamo di combinare qualcosa. E infatti, speriamo. Grazie Gustin. Prego. Mi raccomando allora, mandateci fotografie del Chiullottero, in Italia ci deve essere, da qualche parte, sul nostro sito in home page troverete il link a una sua rara immagine, così potete riconoscerla. Si prende una coperta e la si stende su un ghiacciaio, no, non su tutto ovviamente, su una parte, 150 metri quadri. E cosa succede? Ascoltate Maurizio Menis. Si è appena concluso il primo esperimento italiano di protezione attiva di un ghiacciaio. L'esperimento è stato diretto da Claudio Smiraglia, glaciologo dell'Università degli Studi di Milano, che è in linea con noi. Buonasera Smiraglia. Buonasera a voi. Allora, intanto spieghiamo un po' di che cosa si tratta. L'esperimento si è svolto mediante la stesura di una copertura geotessile sul ghiacciaio Desdè orientale che si trova in Alta Valtellina. Intanto, ecco, che cos'è questo geotessile e come funziona? Dunque, è un tessuto particolare, detto appunto geotessile, un tessuto di sintesi, che normalmente è utilizzato in applicazioni edili, ingegneristiche o ambientali di vario tipo, che ha lo scopo di ridurre la fusione della neve e del ghiaccio sottostanti. Ecco, diciamo che si tratta di stendere una coperta, anziché d'inverno, d'estate, su questo ghiacciaio. Questa è una coperta bianca, sostanzialmente. Certamente. Mantiene la temperatura del ghiacciaio riflettendo i raggi del sole. Certamente, ha una duplice funzione sostanziale. Una è quella di riflettere gran parte dell'energia solare, quindi il calore che in arrivo dal sole, e il suo colore bianco ha questo scopo. Certo. Ma questa è la funzione che svolge anche la neve, che è bianca. Certo. Quindi questo non basterebbe, perché come vediamo d'estate la neve fonde rapidamente. Ma questo tessuto, che poi, se vogliamo fare un paragone, è molto simile a quello che si usa o si usava quando si stira, il tessuto feltroso bianco. Ah, ecco. Ecco, è anche impenetrabile quasi totalmente ai raggi ultravioletti e crea una barriera termica, per cui non solo l'energia viene in gran parte riflessa e quindi non entra, ma certo, quella che entra viene bloccata. E quindi questo consente di ridurre sensibilmente l'abbassamento di spessore di neve e di ghiaccio. Ecco, poi il colore bianco è anche utile da un punto di vista, come dire, mimetico, insomma, si certamente nota poco. Infatti, appena conclusa la stesura, era quasi indistinguibile rispetto al resto della superficie. Mentre quando l'esperimento procedeva durante l'estate, noi avevamo questo apparente innalzamento di questo zoccolo di neve che copriva ghiaccio vivo, quindi certo, di colore sempre bianco, mentre tutto intorno il ghiacciaio grigiastro si abbassava per fusione accelerata. Apparente, dice, perché in realtà era il resto, era quello che stava attorno, esatto, a questa pezza che stava scendendo. Ecco, una infatti pezza peraltro di dimensioni abbastanza ridotte, parliamo di 150 metri quadri circa. Quali sono i risultati che avete ottenuto? Insomma, qual è lo spessore di ghiaccio che avete salvato? Ecco, teniamo conto che i risultati sono stati veramente molto molto soddisfacenti, perché se mettiamo insieme sulla zona non coperta lo spessore di neve equivalente in acqua e lo spessore di ghiaccio sempre equivalente in acqua, abbiamo avuto una fusione di circa 2,30-2,40 metri, che è direi il passo normale di abbassamento dei nostri ghiacciai durante l'estate. Dove c'è stata la copertura invece, la neve in parte se n'è andata, si è fuso circa 70 centimetri di neve, ma la cosa fondamentale è che oltre ad aver conservato uno spessore di neve, si è salvato tutto il ghiaccio sottostante, cioè abbiamo avuto 0% di fusione del ghiaccio in quella zona. Questo vuol dire che in realtà rispetto al ciclo precedente voi vi siete trovati con più spessore di ghiaccio alla fine di quanto ce ne fosse prima, perché avete salvato anche un po' della neve caduta durante l'inverno precedente, o sbaglio? No, certamente, questo è giustissimo. Noi abbiamo quindi evitato la totale fusione della neve precedente, mm-hmm. che a quella quota tutto il resto di ghiacciaio è stata normale come fenomeno, e soprattutto, tengo a sottolinearlo, abbiamo salvato, fra virgolette, tutto il ghiaccio sottostante. Quindi noi abbiamo, chiaramente su quella piccola superficie, trasformato un bilancio di massa del ghiacciaio, quindi il rapporto fra perdite e materiale conservato, che tutto intorno è stato fortemente negativo, in un bilancio positivo. Evidente che è impensabile distendere teli bianchi su tutti i ghiacciai italiani, europei o del mondo addirittura, però probabilmente ci sono dei punti specifici nei quali invece la stesura di una copertura di questo genere può rivelarsi strategica. Ci spiega? Ecco, direi proprio che questo è l'aggettivo giusto che lei ha usato. Certamente pensare di coprire migliaia di chilometri quadrati di telo al momento, direi, non è neanche pensabile, mm-hmm. Però ci sono situazioni delicate, situazioni locali dove, certo, il ghiacciaio sta fondendo molto rapidamente, e soprattutto zone dove cominciano a emergere frammenti, parti del fondo roccioso. Questo direi il sintomo più drammatico, perché non appena fiora una finestra, sì, di roccia di pochi metri quadri, immediatamente questa incamera calore, lo ritrasmette al ghiaccio intorno, e dopo qualche giorno, qualche settimana, questi pochi metri quadri sono diventati 10-20 metri quadrati. Allora, se noi poniamo queste toppe, queste pezze, in queste situazioni particolarmente delicate, possiamo tentare di aumentare il tempo di estinzione di questi ghiacciai, cioè favorirne la loro conservazione. Certo. Grazie mille. Grazie altrettanto a voi, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Gigi Donnelly, quando fece il primo viaggio Roald Amundsen? Dunque, il passaggio nord-est di Roald Amundsen è del 1918, pensa che anno, tra l'altro. 1918, 90 anni fa. Anno importante dell'esplorazione. Roald Amundsen con il MUD, una piccola imbarcazione studiata appositamente per il ghiaccio, fu il terzo a realizzare il passaggio a nord-est, quindi dall'Atlantico al Pacifico, ma non a sud come nella grande tradizione, ma a nord nell'Oceano Artico. Gigi Donnelly della redazione di Radio 24, sei ospite ogni tanto nella nostra trasmissione, ma di solito parli di imprese spaziali. Qui invece siamo quanto mai sulla Terra. Per chi non sapesse chi era Roald Amundsen, è stato uno dei più grandi esploratori nordici nella storia delle esplorazioni. Direi nel pantheon dei grandi come Nansen, gli uomini che hanno di fatto completato la conoscenza geografica del nostro pianeta. Amundsen poi è anche un uomo di straordinari successi, perché fu il primo a realizzare il passaggio a nord-ovest, sempre con un'imbarcazione, e fu il primo nel 1911 a raggiungere il Polo Sud. Poi per noi italiani è abbastanza, come dire, legato alla storia, perché Roald Amundsen sparì mentre andava in soccorso del generale Nobile durante la famosa spedizione dell'Italia. La tenda rossa. Esattamente. C'è stata un'altra spedizione ancora prima, poi adesso vi diciamo perché stiamo parlando di questo. C'è stata una spedizione precedente che ci vede coinvolti maggiormente come paese, no? Sì, assolutamente. Tra l'altro la storia polare è piena di italiani in vari luoghi. Il riferimento è sicuramente al primo passaggio a nord-est, quindi alla spedizione della Vega nel 1878. Il capo spedizione era un signore che si chiamava Erik Nordenskiöld, ma il suo ufficiale oceanografo era un piemontese, il tenente di vascello Giacomo Bove, un eccellente esploratore italiano che, per sua sventura, qualche anno più tardi, come dire, avrebbe concluso trentenne la sua vita, dopo però aver visitato alcuni luoghi formidabili ed essere stato a bordo della spedizione della Vega. Va bene, allora questa è la cornice storica. Sei qui perché c'è una spedizione che parte proprio in questi tempi e rifà il percorso di Amundsen? Sì, rifà il passaggio nord-est, naturalmente 90 anni dopo. Ecco, la cosa fondamentale è che non lo fa in nave, come lo fecero i primi esploratori, non lo fa cercando di insinuarsi nel ghiaccio che si apre più o meno, ora più che meno, come sappiamo, nell'Oceano Artico, lo fa in auto e lo fa tra il mare e la terra, quindi tra la Siberia e il pack ghiacciato. La spedizione è quella di oltre, è una spedizione italiana con un capo spedizione norvegese, quindi si vede che certe tradizioni restano ed è partita ormai pochi giorni fa con destinazione Whalen. Whalen è un porto sullo stretto di Bering, quindi a pochi chilometri dallo stretto di Bering, ed è il punto di arrivo del passaggio nord-est. Quanto ci vorrà? Circa 4 mesi scarsi, perché sono 14.000 chilometri. Considerate che i primi 2.500 chilometri di fatto sono nel grande nord della Russia, ma quello che accade dopo è che le strade finiscono, anche perché tradizionalmente le strade dell'enorme entroterra russa non si muovono da est a ovest, semmai da sud a nord, seguendo il corso dei grandi fiumi, quindi dell'Ob, dello Yenisei, della Lena, che portano, diciamo, dalla Transiberiana, che scorre in basso, verso l'Artico. Qui si tratta invece di costeggiare, di salire letteralmente sul mare ghiacciato, per cercare tra l'altro di evitare degli estuari che a volte da soli impongono 200 chilometri di deviazione. Porterebbero via un sacco di... Sì, tra l'altro questo tragitto è possibile perché, poi dopo vedremo cosa succederà nei prossimi anni, ma è possibile perché in alcuni punti c'è il ghiaccio e si va via dritti, no? Assolutamente, e tra l'altro, nonostante appunto abbiamo accennato, direi tutte e due, a questo cambiamento della superficie ghiacciata dell'Artico, questo vale sicuramente d'estate, di sicuro nel periodo invernale il problema non si pone. Si pone un altro tipo di problema, perché il ghiaccio chiaramente non è dolcemente adagiato sul mare. Il ghiaccio anche in inverno è in continuo movimento, si increspa, crea delle colline, insomma le complicazioni sono enormi. Ecco, scusa Gigi, però la composizione di questi team, poi adesso ci dirai, della spedizione, non è fatta tutta da tecnici, la composizione è abbastanza singolare, no? Assolutamente, c'è un, direi, un mix tra appunto esperti di questo tipo di spedizione. Il capo spedizione Peter Johannessen ha già avuto esperienze polari e di grandi e di importanti esplorazioni. Altri invece sono stati semplicemente invitati a condividere questo sogno. In qualche modo è stato rievocato quella che era proprio la cultura delle spedizioni del Novecento, cioè si metteva un invito su un quotidiano e si diceva: stiamo cercando uomini disponibili a grossi rischi, molto freddo, pochi soldi. Bene, è accaduto la stessa cosa e si sono presentati in molti. E quindi c'è un commercialista dell'Interland milanese che ha sempre sognato di realizzare un viaggio e un'esplorazione indimenticabile. C'è un signore che di mestiere ci aiuta sulle autostrade, quindi un soccorritore autostradale che vive, possiamo dire, di emergenze e di tangenziali, e che ora invece guiderà in spazi molto ampi. Gigi, quanti chilometri sono da percorrere? 14.000 chilometri circa. Ecco, lungo questi 14.000 chilometri già sapete che ci sarà qualche particolare difficoltà da superare? Credo proprio di sì. Come dire, i luoghi più attesi sono, possiamo cominciare dal fatto che la penisola di Taimyr è il punto più settentrionale del continente eurasiatico. Siamo abbondantemente oltre i 74 gradi di latitudine nord. E naturalmente tutto questo nel pieno dell'inverno, quindi temperature previste tranquillamente tra i meno 30 e i meno 60 gradi, senza considerare che viaggiare sul pack, come ho detto, è un rischio continuo. Che mezzi utilizzano per muoversi? Dunque, ci sono 4 fuoristrada, sono tutti mezzi italiani, sono 4 jeep fuoristrada e 2 daily, sono tutti mezzi dell'Iveco, quindi sono dei mezzi di serie, che sono stati articizzati. Ci sono diversi gruppi, no? Non è lo stesso nucleo di persone che va dall'inizio alla fine. 2 gruppi che si alternano. Il progetto è di farle appunto circa 5 settimane per ciascuno. Bene, senti, la radio, il giornale, insomma, com'è che seguirà tutta questa vicenda? Sì, di fatto questa è anche per noi un'esperienza multimediale interessante, perché saremo in grado, speriamo di essere in grado di mostrarvi, grazie alla tecnologia satellitare, i filmati, gli aggiornamenti della spedizione. Quindi li seguiremo fondamentalmente attraverso una piattaforma web che trovate su sole24ore.com e su radio24.it. Il sole va oltre, il titolo che abbiamo scelto era abbastanza inevitabile, visto che veramente il sole andrà oltre fino a febbraio in quelle latitudini, e ci sarà anche la possibilità, e mi farebbe piacere che gli ascoltatori la utilizzassero, di comunicare con i membri della spedizione che, se tutto va bene, saranno in grado di rispondere con dei videomessaggi ai nostri ascoltatori. Bene, anche noi come Mebius ogni tanto verrai qui a raccontarci un po' come vanno le cose. Gigi, buon Natale. E buon Natale anche a te. Grazie. E agli ascoltatori. Sempre per parlare di questa impresa, dopo Gigi Donelli, ho ospite questa sera Simone Bandini Butti. Buonasera Simone. Buonasera. Lei è uno degli organizzatori dell'impresa e in particolare lei ha curato gli aspetti psicologici di questo gruppo che indubbiamente va a fare non una normalissima passeggiata, no? Indubbiamente la passeggiata non sarà proprio una passeggiata, è un'impresa, ha fatto un'impresa con delle valenze scientifiche notevoli, perché noi abbiamo come nostro obiettivo interno quello di andare a scoprire se veramente Babbo Natale abita a Polo Nord. È una domanda che ci poniamo, che è molto difficile e impegnativa, cioè voglio dire, le renne, ma quante sono? Ma quante sono veramente, una al naso rosso? No, vabbè. Senta Bandini Butti, ok, l'attacco mi va più che bene, so che fa anche parte del suo lavoro, in realtà lei ha veramente curato l'aspetto della, come dire, della buona fluidità psicologica all'interno di un gruppo che, insomma, certo l'impresa non è delle più facili, no? Certamente noi in realtà, io con la mia società Creatività, ci siamo occupati, diciamo, della formazione del team, formazione nel senso non della scelta delle persone, ma del creare, fornire quei giusti strumenti per far sì che le persone stiano bene tra di loro. Abbiamo un team veramente molto eterogeneo, se pensate andiamo da livelli culturali da altissimi a molto bassi, andiamo da esperienze completamente diverse, ci sono persone che hanno delle competenze tecniche altissime, sanno smontare un motore di un Massive bendati, a persone che non hanno mai cambiato la gomma della loro automobile, da giovanissimi, 25 anni, fino ai 60 anni, quindi abbiamo una vasta gamma di diversità. E la diversità porta sempre, diciamo, a due principali temi. Uno, una grossa difficoltà nello stare insieme. Sì. Perché tra persone diverse comunque c'è sempre difficoltà nella relazione, nel trovare il linguaggio adeguato, nel avere anche obiettivi. Un ragazzo di 25 vuole fare magari un'esperienza e un tecnico invece vuole magari ampliare il suo curriculum, quindi abbiamo competenze completamente e obiettivi completamente diversi. E mi scusi, anche in una situazione in cui il gruppo non è che ha delle alternative, cioè bisogna stare insieme. Esatto, non c'è assolutamente alternativa. Noi passeremo la maggior parte del tempo in auto, dentro i Massive, e quindi dentro uno spazio ristretto, in gruppi da 3 o 4, e il resto del tempo lo passeremo in tenda in gruppi da 2, quindi diciamo che lo spazio è sempre comunque molto limitato. Con intorno un ambiente in cui non è che uno può dire vabbè, allora adesso questa sera vado al cinema così mi distraggo un po', insomma. Esatto, ma non solo non vado al cinema, diciamo, esco un attimino, stai fuori quei 15-20 secondi, poi magari rientri, perché fuori potremmo incontrare anche i climi da meno 30, meno 40, quindi il fatto di pensare di uscire a fumarsi una sigaretta o anche semplicemente alle funzioni principali, senza scendere troppo nei dettagli, sono operazioni che in realtà hanno una serie di difficoltà. Si parla che in alcune situazioni con vento forte addirittura bisogna legarsi con un moschettone a una corda a una struttura fissa, perché c'è il rischio che a 5 metri di distanza si perda la cognizione dello spazio, quindi uno non riesca più a ritrovare la propria tenda, la propria automobile, quindi passano veramente a situazioni limite molto estreme. Ecco, le chiedo un'ultima cosa, tra l'altro lei ogni tanto, cercheremo di metterci in contatto con lei durante il periodo della spedizione, come la vede? Cioè, secondo lei si può fare una preparazione qui, oppure proprio per questi aspetti psicologici, oppure si aspetta di incontrare anche problemi consistenti nel mentre, durante? Dunque, noi abbiamo fatto due momenti di formazione qui in Italia, uno presso l'Accademia di Alpini di Aosta, molto fatto, gli alpini sono una presenza importante all'interno del nostro gruppo, ci sono dai due a quattro alpini per ogni turno, diciamo, e abbiamo ascoltato una cosa, abbiamo fatto 3 giornate basato proprio sulla relazione, sul imparare a comunicare in maniera efficace attraverso, diciamo, culture differenti, siamo tutti italiani ma culture nel senso di modi, linguaggi diversi. Poi abbiamo fatto un altro 3 giorni invece su un ghiacciaio per imparare a capire quello che sono le nostre dinamiche rispetto al freddo, allo condividere una tenda. Diciamo che questo ci ha fornito un po' di informazioni, un po' di strumenti. È ovvio che andremo a costruire poi strada facendo, perché ci sarà sempre uno della nostra squadra presente durante i turni, andremo un po' a seguire il gruppo e a facilitarlo nei momenti, speriamo, pochi di difficoltà. Bene, mi viene a dire in bocca al lupo, ma non lo so perché magari a quelle parti è pieno di lupi, forse è meglio. Ma noi stiamo lanciando in bocca all'orso, nel senso che vabbè, visto che sarà un animale ogni tanto presente. Grazie, buon lavoro. Grazie altrettanto. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Chiara Albicocco, ti aspettavo qui a Natale, lo sapevamo che saremmo finiti su questo e ne siamo però anche felici. Felicissima, intanto buon Natale a tutti e io sono contentissima che a grande richiesta torna il mio argomento preferito, la cucina molecolare. E insieme all'argomento ovviamente torna anche il nostro ospite favorito. Fisso. Certo, il professor Davide Cassi, che è docente di fisica della materia all'Università di Parma, ma è anche il nostro buon gustaio. Buon Natale professore, bentornato. Buon Natale a voi e a tutti quanti. Benvenuto Cassi. Allora, qui c'è un menù intero se non sbaglio. Abbiamo deciso di preparare un menù molecolare, nonostante l'anno scorso avessimo preparato 4 puntate di menù molecolare che trovate anche sul nostro sito, non vi siete persi niente se volete andare a rivederle. Ecco, quest'anno abbiamo deciso di fare un'unica puntata, un menù intero. Un menù intero natalizio. Allora, facciamo così, non snoccioliamo le portate, andiamo di passo in passo. E chi non avesse sentito altre puntate, adesso il perché questa cosa abbia a che vedere con la scienza. Allora, facciamo una una pillola brevissima. Che cos'è la cucina molecolare, professore? Sì, facciamolo. La posso chiamare cucina scientifica per questa volta, così non spaventiamo nessuno. Come va, vuole. Va bene. Guarda, è una cucina assolutamente in linea con la tradizione, che semplicemente sfrutta idee scoperte scientifiche recenti per inventare nuove tecniche e nuovi piatti. E sono tendenzialmente tecniche e piatti realizzabili anche a casa, e ne daremo un esempio con il menù di oggi. Ecco, ne diamo un esempio, siamo in linea con la tradizione, infatti iniziamo subito con una ricettina di antipasto un po' piemontese, diciamo, una falsa bagnacauda. Ci dica tutto, professore. Allora, certo, è ispirata a una ricetta piemontese, si chiama falsa bagnacauda e non è un'imitazione della tradizionale bagnacauda. È una salsa diversa, più leggera, comunque a base di acciughe e di aglio, e si realizza grazie alla lecitina di soia, che è un ingrediente oggi molto comune. Lo potete trovare tranquillamente negli scaffali dei prodotti dietetici dei supermercati, sì, perché viene assunta come integratore per abbassare il colesterolo. Sì, è lì, è nello scaffale degli integratori. Allora, vi do brevemente la ricetta, la potete realizzare molto facilmente. Serve una testa d'aglio, un po' di pasta d'acciughe, se ce l'avete un po' di brodo di pollo fatto opportunamente ridurre, e poi la lecitina di soia. Versione semplicissima. La parte più complessa consiste nel cuocere un po' in forno a 180 gradi la testa d'aglio per darle un sapore particolare. Sì. Poi mettete la testa d'aglio, un po' di pasta d'acciughe, una ventina di grammi di lecitina di soia, il brodo di pollo nel frullatore. Cominciate a frullare, aggiungete un po' di acqua per ottenere la consistenza desiderata, e quando alla fine la salsa è sufficientemente cremosa la mettete in una ciotolina e la potete servire con delle verdure tagliate sottili. Un po' a pinzimonio, per intenderci. Una sorta di pinzimonio di bagnacauda, e questo è un antipasto natalizio. Ecco, adesso come per tradizione ci deve spiegare la scienza che ci sta dietro. Sì. Che particolarità ha questa lecitina? Allora, guarda, il problema di tutte le salse è ottenere una perfetta emulsione, cioè unire la parte grassa con la parte acquosa. Ora, solitamente si utilizzano le uova, si utilizzano vari ingredienti naturali che hanno questa proprietà. La lecitina è un emulsionante naturale che ha la proprietà di unire acqua e grassi, quindi riesce a dare compattezza e consistenza a delle salse leggere senza aggiungere troppi grassi o troppe sostanze pesanti come i tuorli d'uovo. Quindi è un piatto più leggero in realtà. È un piatto più leggero, è un piatto che poi lascia la bocca piacevolmente pulita, perché la lecitina è una sorta di sapone naturale che ci sgrassa completamente le papille. Quindi se ha un'impressione di leggerezza, apprezziamo gli aromi e i sapori senza appesantirci. Perfetto, l'apertura è perfetta. Adesso voglio passare al primo. Abbiamo due versioni. Allora, prepariamo intanto una pasta con farina o di ceci o di lenticchie. Ecco, diamo due versioni, sia per i carnivori che per i pescivori. Allora, abbiamo o le tagliatelle con la farina di lenticchie accompagnate al cotechino, per rimanere nella tradizione natalizia più tradizionale possibile. E poi, professore, se no, ravioli di farina di ceci ripiene di gamberi. Di gamberi. Questa è una ricetta elaborata dal grande chef Fulvio Pierangelini, ma la tecnica è assolutamente scientifica. Allora, questa è una chicca, una novità. È soltanto da un anno che siamo in grado di impastare farine non di grano. Ecco, questa è la particolarità. Una farina di ceci, una farina di castagne, come vedremo poco più avanti, una farina di lenticchie, non riusciamo ad ottenere una bella pasta compatta che poi cotta dà una consistenza al dente. Ora il trucco in realtà è molto semplice, voi prendete questa farina, la stendete su una teglia in strato sottile, la mettete in forno a 90 gradi per 2-3 ore, lasciate raffreddare e alla fine vi accorgerete che aggiungendo l'acqua fredda si impasta ed è lavorabile in sfoglie più o meno come la farina di grano. Dico più o meno perché non ha le stesse proprietà di elasticità, però riuscirete benissimo a fare lasagne, tortelli, tagliatelle e tutto quello che la vostra fantasia può ispirarvi. Beh, una scoperta mica male, direi. Guardi, c'è molta scienza dietro a tutto questo. Il motivo è che nella farina di grano abbiamo due proteine che si chiamano gliadina e glutenina, che in presenza di acqua e di lavoro di impastamento formano una rete che è il glutine, che tiene insieme tutta quanta la pasta. Nelle altre farine queste proteine in generale mancano, però noi possiamo dare un piccolo aiuto alla natura scaldando a queste temperature basse, denaturando le proteine. Cosa facciamo? Facciamo srotolare questi gomitoli in modo tale che diventino in grado di intrecciarsi gli uni con gli altri e formare di nuovo una rete. Questa, se volete, è la scoperta. Poi l'applicazione ci porta queste paste fantastiche perché hanno un sapore estremamente intenso. Provate ad assaggiare la farina di ceci o la farina di castagne impastate e cotte e vi renderete conto che anziché essere neutre come la farina di grano, portano una componente sapida e aromatica estremamente significativa al vostro piatto. E qui siamo proprio nella scienza dei materiali pura, solo che parliamo di farina, di ceci. Materiali gastronomici. Assolutamente. Ecco, quindi poi queste paste possono essere condite a nostro piacimento. Noi suggeriamo tagliatelle con lenticchie e cotechino, perché, come dire, quello ci vuole. Ecco. E ravioli invece ripieni di gamberi, però volendo si possono riempire anche di carne o come vogliamo. Ovviamente sì, tenete presente che queste paste hanno un sapore proprio e quindi dobbiamo abbinarle alle salse in modo opportuno. Arriviamo al secondo, che è uno esplosivo. Allora, parliamo di aragosta assoluta. Ecco. Abbiamo già parlato di questo tipo di cottura, ma lascio tutto in mano al professore. Sì, insistiamo ancora perché questa effettivamente è una tecnica nuova che deve ancora affermarsi nelle cucine di tutti i giorni. Qua l'ingrediente che serve è il glucosio in polvere, il cosiddetto glucosio anidro. In alcune regioni d'Italia lo potete tranquillamente acquistare al supermercato, glucosio destrosio si chiama anche. Se non avete questa fortuna andate dal vostro farmacista e glielo ordinate, ve lo procurerà in pochissimo tempo. Quanto? Allora, quanto glucosio? Quanto basta per riempire una pentola in cui si friggerà l'aragosta? Perché noi cuociamo l'aragosta nel dentro il glucosio. Va bene. Perché il glucosio verrà trasformato in un liquido di frittura. Ed è molto semplice, basta metterlo nella pentola, mettere la pentola sul fuoco e scaldare mescolando finché il glucosio non diventa completamente liquido. Il fatto è che diventa liquido a 160 gradi circa, quindi è una perfetta temperatura per friggere. Quando il glucosio è liquido, controllate la fiamma perché se supera i 190 gradi poi inizia a caramellizzare e immergete l'aragosta o l'astice direttamente nel suo carapace. Lo fate friggere per qualche minuto, l'ideale sarebbe avere un termometrino a sonda e controllare la temperatura interna, circa 43-45 gradi, allora è pronto. Una volta che siete arrivati al termine della cottura, lo togliete dalla pentola, lo scolate, rompete il carapace, estraete l'aragosta. Se si tratta di un astice, cuocete un pochettino di più le chele, tipo 2-3 minuti in più. Bene. E poi potete servire come meglio credete, o semplicemente con un filo d'olio d'oliva leggero, due gocce di limone, fior di sale, oppure con salse più elaborate. Professore, specifichiamo che nonostante la cottura del glucosio, l'aragosta rimane con il gusto, insomma, intonso, non saprà di caramello. Non viene assorbito, questo per due motivi. Uno è la presenza del carapace, che isola piuttosto bene. L'altro è che comunque il glucosio fuso è estremamente viscoso e fa fatica ad entrare all'interno degli alimenti. Tutt'al più deposita una patina sottile. Dulcis in fundo, direi. Il professore, dolce. Che cosa ci ha riservato? Questa è una ulteriore applicazione della tecnica di cottura delle farine. Questo è il Monte Bianco invertito. Di bigni e di castagne ripieni di crema chantilly, ovvero di panna montata zuccherata. Allora, la ricetta è semplicissima. Prendete la farina di castagne, la mettete nel forno in teglia a 90 gradi per circa 2 ore e poi prendete una ricetta tradizionale di bignè e realizzate con questa farina di castagne, diventano gustosissimi e soffici e alla fine fine li riempite di panna montata zuccherata. E questo è il nuovo dolce natalizio, il Mont Blanc invertito. Che meraviglia, mi è venuta fame. Posso chiedere una cosa finale, Cansi? Ovviamente. Tutto questo menù qui non è che ci porta fuori standard rispetto ai costi? Fuori budget. Fuori budget. No, sono costi normali, no? Allora, pare di aver capito. Il punto chiave è l'aragosta oppure l'astice. Vabbè, ma ci sarebbe comunque. Se non volete investire troppo, potete sostituire tutto con il baccalà avvolto in foglie di poro. Ah, per esempio. Per esempio. Comunque no, tutti gli altri prodotti sono assolutamente abbordabili, la lecitina di soia è economica, il glucosio è meno costoso dell'olio d'oliva e quindi direi che siamo assolutamente nel budget di un periodo di crisi. Benissimo. Tutto questo menù sarà sul nostro sito, perché qui l'abbiamo detto, invece lì scritto si potrà anche certo, stampare. Ci saranno le ricette, i procedimenti e tutto quanto. Va bene professore, che grazie. Fare? Augurarle buon Natale. Buon Natale. Buon Natale anche a voi. Arrivederci. All'anno prossimo. In chiusura del menù natalizio vi ricordo il libro di Davide Cassi, scritto anche insieme a Ettore Bocchia, Il gelato estemporaneo e altre invenzioni gastronomiche della Sperling e Kupfer Editori. Le feste natalizie sono anche legate a grandi tradizioni narrative che non necessariamente hanno a che fare con queste feste, ma che comunque in queste settimane è più facile che riemergano. Mi sto riferendo alla tradizione del racconto biblico, che certamente ha a che fare con fatti e processi storici dell'antichità. Anche il giudizio universale raccontato nella Genesi, sì, certo, ed è corretto che da molto tempo la ricerca archeologica mantenga vivo l'interesse per individuare tracce di questo cataclisma, ma la ricerca è decisamente controversa. C'è un cantiere, un terreno di scavi in Galilea che è aperto da 25 anni nella località di Monte Carmelo. L'equipe di scavo è inglese e da loro una notizia arriva in questi giorni per la voce di Sean Kingsley, archeologo che da tempo studia le possibili origini della tradizione che riguarda il diluvio universale. Qui stanno affiorando i resti di ben 6 villaggi del periodo neolitico, resti affondati, è il caso di dirlo, sotto 10 metri di terra. Che cosa può esserci stato all'origine di questa coperta di fango tanto spessa e uniforme? Kingsley non ha dubbi, solo un'onda di enormi proporzioni è arrivata fin qui dalla costa del Mediterraneo, costa che poi non è così tanto lontana. Un fatto sconvolgente che può certamente essere all'origine di ciò che nella Bibbia appare come giudizio universale. Tutti d'accordo? No. Altri archeologi sostengono che questa nuova ipotesi non regge rispetto a un'altra avanzata da tempo e che narra di un'alluvione verificatasi circa 9.000 anni fa, causata da un innalzamento notevolissimo delle acque del Mar Nero, c'è chi parla addirittura di un centinaio di metri, con una conseguente diffusione delle acque su decine di migliaia di chilometri quadrati. Il problema è, commenta Kingsley, che di questa micidiale alluvione non se ne vedono le tracce. Primo. Secondo, la tradizione biblica non può che essere verificata nell'area della Galilea, di Israele, le zone in cui l'Antico Testamento ha le sue radici. Il Mar Nero è un po' troppo lontano da queste zone per pensare appunto che sia arrivata un'onda a 2000 chilometri di distanza. C'è un collega di Kingsley che ha scavato in uno dei villaggi sommersi e che dice no, non sono d'accordo, questi villaggi possono benissimo essere stati sommersi da un lento innalzamento delle acque, niente di catastrofico insomma. E aggiunge, da quando c'è stato il terribile tsunami nel Golfo Indiano si è scatenata una specie di psicosi negli archeologi, quella di cercare tracce di qualcosa di analogo accaduto nelle terre bibliche. A questo punto sarà meglio aspettare tempi migliori con dati più certi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dario Ricci, buonasera. Buonasera, buonasera amici di Mebius. Della redazione sportiva della nostra radio, gradito ospite, la prima volta sotto Natale. Auguri. Auguri, auguri a tutti quanti. Stiamo per parlare di Ferrari che finisce sulla neve, finisce sul ghiaccio per l'esattezza. Allora dai, attacca, di che si tratta? Eh sì, è un progetto importante, già partito prima delle Olimpiadi di Pechino, ma che ci accompagnerà sicuramente almeno fino a Vancouver ed oltre. Parliamo di questa grande collaborazione tra il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale, la Ferrari, intesa come eccellenza dell'industria motoristica italiana, e poi tutte le federazioni che al CONI fanno capo. capo, in questo caso la Federazione Italiana Sport Invernali. Ebbene, grazie a queste sinergie le nostre nazionali del ghiaccio, in particolare del bob, dello slittino, dello skeleton, stanno mettendo a punto studi su aerodinamica e materiali per guadagnare, Federico, quei preziosissimi centesimi di secondo che nello sport moderno ormai fanno la differenza tra un oro e magari una medaglia di legno. E qui, e una volta lo faremo, si apre un discorso micidiale, perché ormai si sta lavorando sui millesimi, non si riesce a capire che cosa si potrà fare fra 20 anni. Però certo, è vero, l'introduzione di tecnologie raffinate per studiare l'aerodinamica, la fluidodinamica dei bob come di altri, beh, credo anche sci, per esempio. Ah, sì, Sta arrivando anche lì. Lì addirittura c'è un altro progetto, quello di eliminare i pali degli slalom con dei fasci di luce infrarossa. Quindi là non solo cambieranno i materiali, ma anche la tecnica. Perché proprio oggi il terreno di gara completamente. Eh beh, oggi per quanto sia fastidioso, l'atleta però è abituato a questo impatto con il palo. Tu certo. Pensa invece a dover impattare un fascio di luce e quindi a dover cambiare prima l'atteggiamento tecnico e poi la testa, o forse viceversa, ma cambierà tutto. E questo potrebbe essere un cambiamento veramente profondo. Ecco, ma ti chiedo, questa ondata di tecnologie sta trasformando quello che era in molte situazioni un artigianato sapiente, colto dello sport, lo sta trasformando in qualcosa che probabilmente anche mette in moto interessi e problemi nuovi? Beh, direi di sì. Uno dei primi problemi è il regolamento, perché i regolamenti in qualche modo già stabiliscono delle misure, delle performance massime per questi attrezzi, e quindi bisogna lavorare di fino anche sui sacri testi. E l'altro problema è poi la conservazione e la valorizzazione di questi dati. Sappiamo bene che mettere insieme Ferrari, industria e sport ad alto livello crea anche una mole di know-how, di conoscenze che poi vanno tutelate. Insomma, non ti dico che ci ritroveremo nella spy story dello slittino, così come è accaduto nella Formula 1, ma forse ci andremo vicino. Stiamo per ascoltare un servizio, tu hai intervistato... Beh, ho intervistato Stefano Maldifassi, che è il CT della Nazionale di Skeleton, che è anche uno degli ingegneri coinvolti in questo progetto tra CONI, Ferrari e Federazione Italiana Sport Invernali, e Stefano ci spiega proprio in cosa consiste questo progetto. Allora, il progetto è un po' complicato, è un po' complesso, è un po' ampio da raccontare, però... Nasce da una collaborazione voluta tra il CONI, tra Ferrari, e coinvolge al 100% la nostra federazione. È un progetto che come obiettivo ha quello di sfruttare quello che è il know-how specifico delle corse di Ferrari, e che si sposa tantissimo ad esempio nel nostro caso con il bob, dove abbiamo un telaio e una carrozzeria, insomma una scocca che ricopre questo telaio, e che al di là della mancanza del motore può ricavare molto da quelle che sono le conoscenze di Maranello. Questo vuol dire ottimizzare a partire dal materiale per arrivare all'aerodinamica. Quindi c'è stato tutto un processo di ottimizzazione che ha investito tre aree fondamentali, che è quella appunto dell'aerodinamica, dei materiali e del veicolo, dove per veicolo si intende il telaio, la telaistica del mezzo. E questo in poche parole è la parte tecnologica che ha investito e che ha così riguardato di molto la nostra federazione, la FISI, insomma. Ecco, dal punto di vista pratico, in cosa si sta concretizzando questo progetto? Ricordiamolo, siamo nell'ordine dei studi che cercano di limare centesimi di secondo e centimetri, no? Quindi, insomma, siamo nel campo dell'alta tecnologia applicata allo sport, di fatto. Assolutamente, sì. È nato così il progetto, si è preso un mezzo aggiornato e da questo averne una baseline, insomma un punto di riferimento. Si è strumentato questo mezzo per capire forze, carichi in gioco in questa disciplina. Da qua si è riprogettato un mezzo, dopo questa riprogettazione è stato proprio realizzato un nuovo mezzo, e con questo nuovo mezzo una settimana fa siamo andati in pista per verificare appunto innanzitutto la bontà della riprogettazione del mezzo, e allo stesso tempo avere un'analisi comparativa con quello che era il mezzo che avevamo avuto e utilizzato come baseline. E per questo momento si tratta di un lavoro di confronto tra le due situazioni, le due realtà, un confronto che sarà di volta in volta portato all'estremo per appunto migliorare e settare questo nuovo bob nel migliore dei modi, e ovviamente con l'obiettivo di superare il vecchio, cosa che sta già praticamente accadendo. Ecco, ci dica un po' qualche anticipazione sul risultato di questi primi confronti. Effettivamente questa collaborazione sta andando nel verso giusto? Beh, questo sicuramente sta andando nel verso giusto, anche perché, ripeto, la riprogettazione di questo sistema ha fatto sì che si potessero riscoprire e riscrivere tante regole che fino ad ora sono state utilizzate nel BOB, quindi è stato veramente uno stravolgimento di tante cose. Quello che le posso dire è che c'è, ovviamente la nostra per il momento è un'analisi comparativa, cioè fa riferimento a un mezzo italiano, quindi in assoluto non ne so dire di preciso dove siamo. Certo è che abbiamo l'ottimizzazione aerodinamica, che è l'unica che in questo momento possiamo tra virgolette certificare, è capace di dare una sensibilità di discreti centesimi, siamo nell'ordine di poche decine di centesimi, che già possono dare un indirizzo a quello che è stato fatto. Quali sono le discipline coinvolte da questo progetto? Perché si parla chiaramente di discipline di sport invernali, ma non solo. Sì. Per quanto riguarda gli sport invernali, insomma, le tre discipline del ghiaccio, bob, scheletone e slittino, e ancora per quanto è di competenza della FISI, anche in questo progetto, grazie alla disponibilità di Ferrari e grazie anche, devo dirlo, proprio alla volontà del nostro presidente, siamo riusciti ad inserire alcuni studi aerodinamici sia sui tessuti che sulle posizione degli atleti nella postura di gara, e quindi parlo dello sci alpino, discipline veloci, e del salto con gli sci. Oltre a questo, per tornare al ghiaccio, invece abbiamo avuto a che fare con il pattinaggio velocità, sempre nell'inverno. Invece per le discipline estive abbiamo avuto a che fare con il canottaggio e con la canoa, dove anche qua materiali e dinamica del moto sono stati gli argomenti ricercati e ribattuti. Coach, ringraziandola, le chiedo un'ultima cosa. Ricerca avanzatissima, studio sui materiali, sulle posizioni, sugli attrezzi, sulle tecnologie, ma senta, c'è anche un po' un effetto psicologico per l'atleta che si trova sullo slittino spinto dal CONI, dalla Ferrari, da una collaborazione di così alto livello, e quindi per questo in qualche modo si sente anche più tranquillo, più coccolato? Si riesce a calcolare anche questo aspetto, che chiaramente sfugge all'esame delle macchine e dei computer? Quello che dice è assolutamente vero ed è assolutamente palpabile, perché lo si legge negli occhi degli atleti che partecipano a questi progetti e a questi lavori. C'è da dire che questo dipende molto anche dal terreno che si incontra, nel senso che si trovano squadre sensibili a questo e che credono fin dal primo momento che la ricerca possa dare qualcosa, si riesce ad amplificare questo effetto, che da un certo punto di vista è quasi un effetto placebo, però è anche un effetto che rende consapevoli gli attori di questi progetti di un po' di forza in più, rende consapevoli della propria forza, delle proprie possibilità, e il lavoro vale doppio quando uno ci crede in questo caso. Si avvicina il 2009, saranno 200 anni dalla nascita di Charles Darwin e a 150 da quel libro, L'origine della specie, che tanto ha significato nella nostra storia. Maurizio Melis vi racconta ora di un Natale particolare per Darwin e ci suggerirà anche alcune riflessioni che penso vengano bene in questi momenti dell'anno. Un giorno, mentre sbarcavamo su una spiaggia presso l'isola Wollaston, siamo passati vicino a una barca con 6 indigeni. Questi erano le creature più misere e sventurate che avessi mai visto. Erano completamente nudi, e nuda era anche una donna che si trovava con loro. Pioveva a dirotto, e la pioggia, mista agli spruzzi delle onde, gocciolava sul loro corpo. Ci può essere un atto più mostruoso di quello di cui è stato testimone Byron, di una povera madre che raccolse il suo bambino morente coperto di sangue che il marito aveva spietatamente gettato sugli scogli per aver lasciato cadere un cestino di ricci di mare. È il 25 dicembre del 1832 quando Charles Darwin, lo scopritore della teoria dell'evoluzione, annota queste parole. Si trova nella Terra del Fuoco, l'estrema propaggine a sud del continente americano. Una terra inospitale, fredda e dura. È poco più che all'inizio del viaggio quinquennale a bordo del brigantino Beagle, un due alberi che lo porterà a visitare alcuni dei luoghi più remoti del mondo. Il diario di Darwin sarebbe poi stato pubblicato nel 1839 con il titolo «Viaggio di un naturalista intorno al mondo». Un resoconto prezioso e dettagliato di quanto Darwin aveva osservato, da cui emerge l'inesauribile meraviglia dello studioso per la natura, e che si sarebbe poi rivelato decisivo per la formulazione della teoria dell'evoluzione. Ma anche l'istantanea di un mondo che non esiste più è una finestra su una cultura, quella europea, ma soprattutto inglese, in tempi non così remoti. Darwin si scaglia duramente nelle pagine del libro contro la schiavitù. Colpiscono le parole che scrive dopo aver visitato Rio de Janeiro, sconvolto dalla crudeltà delle pratiche usate contro gli schiavi. Ma ben diverso è l'approccio di Darwin nei confronti delle civiltà indigene. Considera selvaggi coloro che, come i fuegini, gli abitanti della Terra del Fuoco, appunto, vivono secondo stili di vita per lui inconcepibili. E quando il comandante del Beagle Fitzroy restituisce alla Terra del Fuoco alcuni dei suoi abitanti prelevati, per così dire, in un viaggio precedente allo scopo di civilizzarli in Inghilterra, Darwin si limita ad annotare con rammarico che erano rapidamente tornati ad essere dei selvaggi. Da buon inglese del XIX secolo considera la perfetta uguaglianza fra gli individui che compongono le tribù fuegine, cito testualmente, come la principale causa del loro ritardo nella civilizzazione. È il sistema Cambridge, il pilastro della dottrina sociale e coloniale inglese di cui il naturalista è imbevuto e che prevede una ferrea gerarchia sociale. Darwin non può sapere che molte delle culture che incontrerà sarebbero sparite di lì a poco. Non perché convertite alla civiltà, ma perché cancellate dalla devastazione ambientale, dalle malattie portate dagli occidentali e dall'imposizione di uno stile di vita estraneo. Culture che oggi avrebbero molto da insegnarci su come vivere nel rispetto dell'ambiente naturale. Viaggio di un naturalista intorno al mondo è perciò un testo di grandissima attualità. A maggior ragione proprio perché è contraddittorio. Anticipa di due secoli il moderno concetto di diritti umani quando attacca la schiavitù, ma allo stesso tempo, e questa volta in negativo, fornisce materiale su cui riflettere intorno al tema della diversità delle culture. Ci rammenta quanto sia difficile, se non impossibile, innalzarsi al di sopra della propria cultura, staccarsene, per così dire, al punto di essere in grado di giudicare serenamente quelle altrui e comprenderne gli equilibri. E ci ricorda quanto sia dannosa e vana l'idea di esportare la civiltà. Un'idea che almeno a noi di Mebius pare tornata pericolosamente di moda. Mebius termina qui questa settimana, non prima che da Chiara Albicocco, Barbara Gallavotti, Maurizio Menis, Paolo Arebusco e da me, Federico Pedrocchi, vi arrivino gli auguri migliori per feste felici e il più possibile spensierate. Vi ricordo le edizioni di Mebius del 25 e 26 prossimi alle 18, giorni in cui normalmente Mebius non va in onda, ma per queste feste invece sì, ci incontreremo nuovamente. Buona serata a tutti e a tutte.